colonna è un gruppo, un collettivo di persone che si è attivato fin dai tempi della pandemia con iniziative di mutualismo per rispondere un po' ai bisogni delle persone che erano state più colpite a livello sociale dalla pandemia. A partire da questa esperienza ci siamo attivati anche in questa emergenza fin da subito per intervenire nei territori che sono stati più colpiti dall'alluvione, quindi non solo Bologna e la sua provincia, ma anche la Romagna, dove continuiamo a svolgere un intervento in accordo con un'altra realtà di Bologna, che è Platt, con cui in qualche modo siamo riusciti a coprire un po' tutte le giornate di questa settimana. Nonostante in questi giorni si stia già parlando di ricostruzione, no, nei media mainstream, quello che vediamo ancora è una situazione di profondo disagio, profonda emergenza ancora nei territori che sono stati colpiti dall'alluvione, in particolare in Romagna. Innanzitutto quello dell'assemblea di domani è un modo per tenere alta l'attenzione su quello che è successo, un modo per far convergere un po' tutte le persone che si sono attivate in questi giorni su questa emergenza per cercare di fare un passaggio oltre appunto l'emergenza e parlare invece di modello di sviluppo, di modello di gestione del territorio, per provare assieme non solo a criticare quello che ha caratterizzato il territorio, che evidentemente è una concausa, no, di quello che è successo, ma anche per provare a immaginare forme, modelli di sviluppo e gestione del territorio alternativi. Assemblea vive dallo slogan anche di questa non è una perturbazione ma una crisi climatica, appunto, no? Quindi immagino che il tema centrale sia ovviamente anche questo. Assolutamente sì, pensiamo che il ragionamento non possa essere disgiunto, cioè il ragionamento che pone al centro la crisi climatica, quindi un modello di sviluppo che è globale in qualche modo, cioè che è andato nella direzione dello sfruttamento delle risorse della terra, diciamo così, e degli umani, non possa essere disgiunto una riflessione sul governo specifico di questo territorio, che ha delle responsabilità ben determinate, perché è un modello che ha messo al centro la cementificazione e la creazione di un certo tipo di infrastrutture, per esempio della mobilità, che hanno prediletto una forma di mobilità come quella su gomma, il trasporto su gomma, penalizzandone altre. E quindi noi crediamo che parlare di questi temi sia assolutamente centrale anche per affrontare le sfide del futuro, no? Cioè non possiamo non pensare che nei prossimi mesi o nei prossimi anni queste crisi non si ripeteranno, saranno probabilmente, non dico la quotidianità, ma una costante a cui dobbiamo rispondere, e bisognava rispondere probabilmente prima, ma non tutto è perduto. Pensiamo che quello di domani sia un primo passaggio per mettere a tema forte, per mettere al centro in maniera forte questo tipo di discorso. Quindi non è una crisi climatica che va affrontata assieme, costruendo una progettualità dal basso, che è un po' il modello che noi abbiamo praticato in questi giorni, no? Cioè un intervento dal basso auto-organizzato, mutualistico, e che quindi pensiamo possa essere replicato anche in altre forme, in altri ambiti, come quello di la costruzione di un progetto alternativo, di un immaginario alternativo, ovviamente coinvolgendo tutti i soggetti che hanno partecipato in questo tipo di iniziativa, no? Che sono stati vari e plurali. Ci puoi ricordare l'orario e il luogo di questa assemblea? Sì, l'assemblea è domani alle 16 in Piazza Maggiore a Bologna. Ho visto che, se non sbaglio, volete anche proporre ai sindacati di indire, diciamo, uno sciopero del fango da proclamare a livello regionale, giusto? Sì, questa è una delle piattaforme, diciamo così, speriamo che ci sia un'adesione da parte delle sigle sindacali, oltretutto è una notizia recente sui giornali che un rider è stato dato per aver dichiarato che stava andando a dare una mano nei territori colpiti dall'alluvione, diciamo così, oltre al fatto che molte persone si sono trovate a dover comunque lavorare o aver perso il lavoro nonostante l'emergenza, no? Quindi nonostante fossero state colpite dall'alluvione. Quindi per mettere al centro il tema del lavoro, che evidentemente non è giunto, no, dal modello di sviluppo, cioè un certo di industria, un certo tipo di produzione è collegata a questo tipo di sfruttamento del territorio. Pensiamo che coinvolgere i sindacati dentro a questo discorso sia assolutamente fondamentale. Ci puoi ricordare un attimo i punti di raccolta, di incontro, per poi partire, insomma, così da permettere a tutti di essere aggiornati? Sicuramente seguire i profili social della colonna solidale autogestita e anche di Platt ci permette una fotografia di quelli che sono i bisogni, che come potete immaginare sono molte, cambiano, diciamo così, perché poi ci sono gli interventi che sono repentini, no? Quindi noi raccogliamo un po' le richieste dai territori e cerchiamo di rispondere poi di segnalare sui nostri profili. Sicuramente l'emergenza non è finita, noi nei prossimi giorni continueremo a intervenire su questi territori perché è necessario. Vi invitiamo, se potete, a venire con noi, oppure donare nel sito della colonna colonnasolidale.org/dona, c'è un modo per fare una donazione economica con cui noi prenderemo o beni di prima necessità oppure aumenteremo un po' il parco degli strumenti che abbiamo, quindi stivali, pale e tutto quello che serve necessario per questo tipo di intervento.